Mi staccai dai confini della mia esistenza rurale. Addio alla fabbrica, alla sala della Square Dance, ai frutteti inariditi. Cristo, me ne andai a New York. Avevo l'idea fissa di diventare una pittrice e fu in questa ricerca che trovai il ritmo e la radice della mia voce. Stavo in piedi per ore davanti a grandi fogli di carta attaccati al muro, sentendomi completamente frustrata per la mia incapacità di tracciarvi delle immagini. E allora cominciai a scriverci su. Ritmi, parole, cose che dalla carta correvano fuori dall'intonaco. Poi, dal semplice atto fisico di scrivere parole, cominciarono a scaturire dei versi. E di lì, per affinamento progressivo, nacquero le canzoni. Sei stonata. Era la quinta volta che me lo dicevano quella settimana. Da quando ero arrivata a New York avevo fatto veramente tanti provini come cantante, ma cominciavo a pensare che non ce l'avrei mai fatta. Al paese di campagna da dove venivo cantavo sempre, tutti mi dicevano che ero brava. Quindi com'era possibile adesso che non andavo più bene? Era il 1974, ragazzi, il 1974 a New York. Era favoloso, in quegli anni era tutto un pullulare di artisti, musicisti, locali, teatri, e dove giravi gli occhi qualcuno suonava, cantava, recitava. Avevo preso una stanza con Robert, un fotografo squattrinato che avevo conosciuto una sera in un locale. Era introverso, timido, ma secondo me geniale. E noi stavamo legando molto. Forse, in fondo, mi stavo anche innamorando di lui. Una sera andammo insieme in uno dei locali dove si faceva musica underground. Questo in particolare era un buchetto pieno di fumo, ma lì non facevano semplicemente musica, recitavano poesie. E c'era sul fondo un palchetto dove salivano a turno delle persone. La gente ascoltava, poi appena il poeta aveva finito applaudivano, oppure fischiavano tirando di tutto sul palco. Era una specie di contest tra poeti. Anch'io scrivevo poesie in quegli anni, ma non le avevo mai fatte leggere a nessuno se non a Robert, e a lui piacevano tantissimo. A un certo punto finì un poeta orrendo e gli venì addosso di tutto, e i fischi mi stavano assordando. Il piccolo presentatore salì sul palco e chiese se c'era ancora qualcuno quella sera che volesse esibirsi. Ci fu un attimo di silenzio, poi Robert accanto a me alzò la mano. «Lei!» disse, indicando me. «Io!» Tutto il locale si girò verso di me, fissandomi in un silenzio tombale. Robert mi fece un tale sorriso idiota che lo avrei ucciso e mi spinse ad alzarmi. Avevo in tasca dei foglietti spiegazzati con alcune delle ultime cose scritte. Andai verso il palco, salii e mi avvicinai al microfono. Tutti mi osservavano. Avevo tutti gli occhi addosso. Per loro ero una sconosciuta. E poi in quegli anni, una donna che recita, figuriamoci. Non uscivo una parola dalla bocca e stavo odiando Robert profondamente in quel momento. Quindi deglutii e dissi: «Qualcuno vuole accompagnarmi con uno strumento qualsiasi?» Altro silenzio, volevo morire. Poi all'improvviso si alzò un ragazzo biondo, aveva una chitarra vicino, la prese, salì sul palco, attaccò il suo jack e mi fissò. «Io sono pronto, e tu?» Presi i miei foglietti, iniziai a leggere le mie poesie, o meglio quegli appunti, quelle frasi che avevo scritto. Il ragazzo iniziò a suonare la sua chitarra. E allora vennero fuori dei suoni pazzeschi. Fischi, distorsioni. E io leggevo, continuavo, lui suonava. Un flusso di parole e suoni cominciò ad intrecciarsi su quel palco. Un fiume di emozioni continue fluiva tra noi. E scendemmo dopo 20 minuti tra gli applausi del pubblico. E ancora oggi io non so esattamente cosa ho recitato di preciso quella sera, ma solo oggi so che, dopo quasi 30 anni, io e Lenny suoniamo ancora insieme. This benediction chair is addicted to thee. She is the red carnation chair, is connecting with thee. And you're a girl, and I don't know why I feel so ceaselessly. How could it be you're sticking over me? I'm dancing barefoot, heading for a span. Some strange music throws me on, Miss me coming like some heroin. She, yeah, is sublimation. She, yeah, is the essence of they. She, yeah, is concentrating on air, who's chosen by she. And here I go, and I don't know why I spin so ceaselessly. And could it be you're taking over me? I'm dancing behalf of Adam Forrest Payne. Some strange music draws me in. Miss me coming like some heroin. And she, yes, for creation, she, yeah, intoxicated by they. She, yeah, has this loud sensation that, yeah, is levitating with she. And you're a girl, and I don't know why I spend so ceaselessly until I lose my sense of gravity. Dancing behalf of Adam Forrest Payne. Some strange music throws me in. Miss me coming like some memory. Oh God, I fear for you. Nostra vita suda nel buio come una faccia, il mistero della nascita, dell'infanzia stessa, visitazioni di tombe. Ma cos'è che ci chiama? Perché dobbiamo pregare urlando? Perché la morte non può essere ridefinita? Chiudiamo gli occhi, allunghiamo le braccia e volteggiamo su una lastra di vetro, un appiglio a qualsiasi cosa, alla linea della vita, all'arto di un albero, alle mani di lui e alla promessa che lui, lei è benedetta tra le donne. Suo padre morì e gli lasciò una piccola fattoria nel New England. Tutte le macchine lunghe e nere del funerale lasciarono il posto e il ragazzo stava fermo lì da solo, guardando il trattore rosso scintillante dove lui e suo padre sedevano dentro. E facevano dei giri intorno ai campi blu e ungevano la notte, ed era come se qualcuno avesse spalmato burro su tutti i punti sottili delle stelle. Perché quando guardò su, le stelle cominciarono a scivolare. E allora mise la sua testa in mezzo alle braccia e cominciò a viaggiare. A viaggiare verso il ventre di una nave. Lasciò che la nave si aprisse e ci entrò dentro. E lì vide suo padre, dietro il pannello di controllo che sgorgava gocce di luce. E vide suo padre dietro il pannello di controllo. Ed era veramente diverso stanotte. Perché non era umano. Non era umano. E allora il volto del ragazzino si illuminò di una gioia così nuda che il sole cominciò a brillare e a bruciare intorno alle sue palpebre, e i suoi occhi erano come due soli, bianche palpebre, bianchi opali, che vedevano tutto solo un po' troppo chiaramente. E si guardò intorno e non c'era nessuna nave nera in vista, nessuna macchina nera da funerale, niente, tranne lui, il corvo, e si inginocchiò e guardò su e urlò piangendo: no, no papà, non lasciarmi qui da sola, portami su papà, su papà, nel ventre della tua nave, lascia che la nave si apra e io ci entrerò dentro, dove tu non sei umano, tu non sei umano. His father died and left him a little farm in England. All the long black funeral cars left the scene, and the boy was just standing there alone, looking at the shiny red tractor. Him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and wish the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up, they started to sleep. Then he put his head in the crooks of his arm and he started to drift, drift to the belly of a ship. Little ships slide open and the wind inside of you. And it's so steady, high into control, but streaming bits of light. It's so steady. C'era la sabbia, c'erano pezzi di terracotta, e il sole aveva sciolto la sabbia e si era coagulato come un fiume di vetro. Quando si solidificò, guardò la superficie e lui vide la sua faccia. E dove c'erano gli occhi, c'erano solo due opali bianchi. Dove c'erano gli occhi, c'erano solo due bianchi opali. E guardò su e i raggi lo accecarono. E vide un corvo arrivare, strisciò sulla sua schiena e andò su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, the shaman to wear, to wear, in shaman to wear. We like birdlet. Pissing in a river, watching it rise. Tattooed fingers shall wave from me. Vices, mesmerized. Vices, beckoning sail. Come back. A spoke of a whale, tip of a spoon, mouth of cave. I'm slave, I'm free. When are you coming? Hope you come soon. Finger, encircling there. Come back for me. Empty, excreted in your soul. What more can I give you? Baby, I don't know. What more can I give you to make this thing grow? Don't turn your back now. I'm talking to you. And should I pursue a way so twisty? Should I grow dependent and gifted? Should I kill the land over ever the royal to drum to cry me a river? Everything I've done for you, I give my life for you. Every move I made, I moved to you, and I came like a maggot for you now. Oh, what about it? You wanna leave me? What about it? You don't need me. Oh, what about it? I can't live without you. What about it? I never talked to you. What about it? What about it? What about it? Passing in a river. Sì, forse era la ripetizione dell'esecuzione, perché il flusso di linguaggio che sembrava infinito e che si versava attraverso le mie mani sui fogli di carta, sui muri e nell'aria, sembrava proprio asciugarsi mentre creavamo Radio Etiopia. Come comunicare allora? Reinventare le parole? Sì, reinventare le parole, dissociarle, ridefinirle e mandare per una volta a farsi fottere il gergo scarabocchiato sui muri della nostra sala prove. Uscì, andai sulla 48esima e mi comprai una chitarra elettrica, una Fender Duo Sonic del 57. Il vecchio Manny me la vendette senza esitare per $110. Perché circolava la leggenda che quella chitarra l'avesse suonata Jimi Hendrix. Leggenda o no, adesso era soltanto mia. Sapete, mi piaceva il tocco di quel duro manico d'acero. Il mio desiderio fondamentale, il mio fine era esprimere idee, per quanto astratte, ma dentro il regno del suono. Correva l'anno del bicentenario. La forza del desiderio ci spinse a tradurre l'immaginazione in azione. E fu in quel momento, mentre cercavo di cavalcare una marea di feedback che uscivano dall'amplificatore della mia chitarra, che incontrai Fred Sonic Smith, il quale, con poche e semplici parole, mi mostrò come tirare fuori dal mio strumento un altro linguaggio, o come diceva lui, di parlare attraverso i suoni. Nel cuore io sono musulmana, nel cuore sono americana. Nel cuore io sono musulmana, io sono nel cuore un'artista americana e non ho sensi di colpa. Cerco il piacere, cerco i nervi sotto la pelle e non mi sono venduta a Dio. I don't fuck much with the past, but I fuck plenty with the future. Over the skin of silk, of scars from the splinters of stations, the walls I've caressed. A stage is like each part of it, like a log of Helen is my pleasure. I would measure the success of a night by the mantelpiece and see that could exude over the columns the nest of the PA. Some nights I surprise everybody by skipping off with a skirt of green that sailed over with flat metallic circles which dazzled and flashed. The lights were violet and white, and I had an ornamental veil, but I couldn't bear to use it. Where my hair was cropped, I craved covering, but now my hair itself is the veil, and the scalp inside is a scalp of a crazy and sleepy Comanche lies beneath an airing of the skin. I wake up, I'm lying peacefully, and my knees are open to the sun. I desire him, and he is absolutely ready to seize me. In heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American. In heart, I'm Muslim. In heart, I'm an American artist, and I have no guilt. I seek pleasure, I seek the nerves under your skin, the narrow artery, the lawyers, the scroll of ancient letters. We worship the flow, the belly, the mole on the belly of an exquisite sword. He spared a child and spoiled the fraud. I have not sought myself to God. Mm-hmm. Holy Kerouac, holy Uncle, holy Barros, holy Cassidy, holy the unknown beggar and suffering beggars, holy the adios human angels, holy, holy my mother in insane asylum, holy the cocks of the grandfathers of Kansas, holy the groaning saxophone, holy the bopper cop apocalypse, holy the jazz bands, marijuana, Epster's peace and junk and drums are holy, holy. Holy the solitude of skyscrapers and pavements, holy the cafeterias filled with millions, holy the mysterious rivers of tears under the street, holy the lone juggernaut, holy the vast lamb of the middle class, holy the crazy shepherds of rebellion who digs Los Angeles is Los Angeles, holy New York, holy San Francisco, holy Peoria and Seattle, holy Paris, holy Tangerines, holy Moscow, holy Istanbul, holy, holy in time and eternity, holy, eternity in time, holy, the clocks in space, holy, the four dimensions, holy, the fifth international, holy, the angel in Moloch, holy, holy, holy, holy, the sea, holy, the desert, holy, the railroad, holy, the locomotive, holy, the visions, holy, the hallucinations, holy, the miracles, holy, the eyeball, holy, the abyss, holy, forgiveness, mercy, holy, holy, holy, holy, holy magnanimity, holy freedom and peace, and holy, holy, holy, holy, holy, holy. Dalla poesia parte tutto, da sempre ho scritto prima versi e poi canzoni. Quando Allen Ginsberg mi chiamò la prima volta, mi sembrava di morire. Uno dei miei riferimenti di vita voleva che lo andassi a trovare per parlare di poesia. E io mi sentivo così piccola, così una nullità di fronte a lui, a tutti quelli che come Allen avevano dato alla poesia qualcosa che sarebbe rimasto per sempre scolpito nella storia. La Beat Generation ha segnato un'epoca, ha segnato chi, come me, ha sempre avuto la necessità di scriversi, esprimersi attraverso la parola. E quando morirono prima Allen, poi Burroughs, il mondo aveva perso due delle figure più significative di sempre e lasciavano un vuoto incolmabile. Quindi, quando decidemmo di registrare Spell qualche anno dopo in omaggio a Ginsberg, mi resi conto ancora una volta della potenza che la parola può avere, quando però a scriverla è qualcuno degno del paradiso dei poeti. Holy. Ebbi il privilegio di crescere in un periodo di rivoluzione spirituale e culturale, e la musica era la rivoluzione in cui tutto aveva voce, e attraverso questa voce noi ci univamo, davamo nuovi significati alla parola soldato, imbracciavamo una chitarra elettrica al posto di una mitragliatrice. We were growing Easter Sunday. my sweden, Isabella. Oh, my love was Isabella. Frederick and Fertilea strained my vision inside of me. Isabella, all is knowing, Isabella, all is glowing. Time has come. I'm the spring, the olive ground, the endless sea, the mystery, the thorn, the veil, the face of grace, the brazen image, the thief asleep, the ambassador of dreams, the prince of peace. I'm the sword of wound, the stain, scorn, transfigure, child, king. I ran, I hid, I return again. I'm the salt, the bitter laugh, I'm the gas in a womb of light, the evening star, the bowl of sight, the lids, the shears, the tears of Christ, dying and crying as I race tonight. Isabella, oh, arising, Isabella, way arising, Isabella, my little one, take my hand, time has come. Gesù morì per i peccati di qualcuno, non certo per i miei. Mescolando in una tavola di ladri un asso nella mia manica, i miei peccati e me stessa appartengono a me. A me. La gente dice attenzione, ma a me non importa. Per me le parole sono solo lacci e regole. Io mi muovo in questa atmosfera dove nulla è permesso, butto giù il mio incantesimo su di lei ed ecco che viene, camminando per la strada, ed ecco che viene, entrando attraverso la porta, ecco che viene, strisciando su per le scale, ecco che viene, danzando attraverso la sala, ecco che viene. Oh, sta bene così, è così bella, e io ho quella pazza sensazione che la farò mia. Guardo l'orologio, è mezzanotte e lei mi sussurra nell'orecchio. E io sto per fare il grande salto. Sto per fare il grande tuffo, Dio, che ne sarà di me. E sto per dire al mondo che l'ho appena fatta mia. Urlerò al mondo che l'ho appena fatta mia. E quindi le dissi, cara, dimmi il tuo nome. E il suo nome era Gloria. Thank you. land. Café has a club house, a girl in white dress, a boy shirt, white staff. Oh, don't you know that anyone can down and undercome and a call and a fall on the floor? Don't you see when you're looking at me that I never entrust entrance in you? Yeah, I'm a stranger. So come explore me. Oh, don't you know that anyone can come and come and go, include on the floor? Don't you see when you lay on me, the night never ran, dress and transcend in a strange. Should my stuff? Don't you know that anyone can come and come and call the fool on the floor? Don't you see when you're looking at me? Don't I never hear transcend, transcend, and I the temple tonight. Oh no, I don't think so. Do you not go to the palace of answers with me, Marie? Oh no, no, I don't think so. No, see there for me, book a go. And as soon as still that platinum is coming, I wanna look inside of your temple. It look just like the inside of anyone. Man, and when he beckon his finger to me, well, I move, I move, I move, I move, I move, I move. Well, I'm moving in another dimension. I'm moving another dimension. I'm moving another direction. Oh, I spin, I spare. I splatter hand again up in the finger, I feel that finger, and I go and I start a wheel and I whirl and I whirl. To God, there's a turn up for now. To God, God, straight. Turn God, turn love, straight. Stavo sognando nei miei sogni di un aspetto luminoso e bello. Il mio sonno fu interrotto, ma il mio sogno tardava a svanire. Sotto forma di valli splendenti, dove si sentiva l'aria pura e i miei sensi si rinnovavano, io mi svegliavo al grido. Al grido che la gente ha il potere di riscattare il lavoro degli sciocchi. Sull'umile piovono le grazie. Il potere sarà del popolo. Ricordate, uomini politici, che la gente ha il potere. Gli eserciti cessarono di avanzare perché la gente aveva trovato ascolto e i pastori e i soldati giacevano sotto le stelle scambiandosi visioni e braccia distese a consumarsi nella polvere. Sotto forma di valli splendenti, dove si sentiva l'aria pura e i miei sensi si rinnovavano, io mi svegliavo al grido che la gente ha il potere di governare, di liberare il mondo dagli stupidi. Il potere sarà del popolo e destino. Il potere sarà del popolo e destino. E ascoltate, uomini paurosi, io credo che ogni cosa che sappiamo possa avverarsi attraverso la nostra unione. Possiamo far cambiare corso al mondo, il destino, alla storia. Possiamo mutare la rotazione della terra. Noi abbiamo il potere. La gente ha il potere. I feel upset. Last is some celebrating. Come on, honey. Don't hesitate now. Needed you with fear. I was so forsaken. But now the tables have turned my mirror. I believe I've been taking my revenge. Revenge. I thought you were some perforator, some digital delay had obscured and faced my view of the wicked hand you play at. How the sense and hands of time are run out, and you better face it. Yeah, the things run amok this luck. I do know how to replace it. Wherever. I gave you a wristwatch, baby. You don't even give me the time of the day. You want to know what makes me tick. Now it's me that's got precious little to say. For the cult of a love I've driven tired. There's no use faking it. And the spirit's gonna close in on you tonight. Our time was taking my revenge. Sweet never gonna measure up my love for you. It's so immaterial. I don't wear around for you. Nobody gets anything, nobody gets nothing, no. Don't let me no space in your little boy. You ain't gonna need no, you ain't gonna need no little boy. You're living on my time, dear. And now I'm taking my revenge. Sì, dicevano che per essere una vera rockstar bisognava avere tanti uomini, drogarsi, fare sesso con chiunque. No, non mi sono mai sentita così. In fondo non mi sono mai sentita neanche una vera rockstar. Robert era stato il primo amore della mia vita quando eravamo giovani. Frederick il secondo. Con il gruppo avevamo girato per anni senza fermarci un momento, ma all'improvviso io sentii la necessità profonda di smettere quella vita. Ero stanca, avevo bisogno di altro. Quando Frederick quella sera mi diede il nastro con il suo ultimo brano su cui voleva mettersi il testo, io capii subito che c'era qualcosa che non andava. Mi guardò fisso negli occhi, mi accarezzò e disse: sei bellissima. Rimasi ferma da sola in salone con quel nastro in mano. Avevo addosso una sensazione orrenda. Quella notte volli dormire abbracciata a lui. Avevo freddo, paura, mi svegliavo spesso. Lo fissavo mentre dormiva. Quando dopo 9 mesi se ne andò. E se ne andò per quel terribile male. Mi sentivo come svuotata. Come se mi avessero tolto una parte dentro di me. Avevamo da poco fatto l'ultimo concerto insieme. Lui era molto malato ed era stato male dopo quella performance. Ma per niente al mondo ci aveva rinunciato. Voleva salire su quel palco quella sera, come facevamo da sempre. Eravamo saliti insieme, ma sentivo che mentre camminava e mi teneva stretto, faceva fatica e si aggrappava spesso a me. Sembrava un bambino che aveva paura. Nelle settimane successive alla sua morte vagavo spesso per casa da sola, in silenzio. Rimanevo a fissare i suoi strumenti. Non avevo neanche il coraggio di buttarli, stavano lì come l'aveva lasciati lui, come ogni sera che si metteva a scrivere e suonare, quando mi chiamava per farmi sentire un motivetto che stava creando, quando mi mettevo accanto a lui e cantavamo insieme, e poi chiamavamo nostra figlia a cantare con noi, le sue penne, i suoi appunti. Me lo immaginavo ancora immerso nei suoi pensieri. Lo vedevo ancora quando giocava sul divano con nostra figlia. Sentivo ancora le loro risate riecheggiare per tutta la casa. Si dice che le donne sono più forti degli uomini. Sì, che nei drammi della vita hanno più risorse. Ma allora perché io stavo così? Perché sembrava che niente avesse più senso? Interruppi l'attività dei concerti e non ce la facevo. Avevo perso anche Robert poco tempo prima. Il mio amore e amico di sempre sconfitto dall'AIDS. Ora Frederick, gli uomini più importanti della mia vita mi avevano lasciata. Ero sola. Io ero sola. Io che ero considerata una ribelle, una lottatrice, una dura, la madrina del punk. Io ero al tappeto, non avevo più energie. Sola, sola come una donna qualunque. O come forse tutte. Una sera mia figlia venne in salone, mi guardò e disse: mamma, piangerai anche stasera? Non ti va invece di suonare qualcosa insieme? E andò verso gli strumenti del padre. Era la prima volta che lo faceva. Si sedette al suo pianoforte e iniziò a suonare. La fissai a lungo. Poi mi avvicinai e le accarezzai i capelli. Lei era lì. Lei era lì e non mi aveva lasciata. Ora era lei la mia famiglia e per lei dovevo trovare la forza di andare avanti. Dopo pochi mesi registrai il brano che aveva scritto Fred prima di morire. Scrissi un testo sull'amore, sull'amore che dura in eterno, sull'amore che anche dopo la morte può rimanere per sempre impresso nella mente, sui miei due amori. Io e Frederick avevamo condiviso tanto. Era un uomo che mi aveva accudito come nessuno aveva mai fatto per me, senza chiedermi nulla. Thank you. where annual planting, where you return to fear my heart a spending. You in your alien arms, oh, my early dreams are shattered. I'm so tired, I quit. Take me forever, here doesn't matter. Deep inside of your ship, lie, la la la la la, landing. Please, oh, I want you return. Just see your blue lights are flashing. You and your alien arms. I tip in the forest. Oh, well, I got it as a little girl. Let my eyes roll in the sky, looking for you. Oh, you know I would go. Everywhere though, 'cause no star is too far with you, la la la la la la, landing. Please, oh, I want you return. Feel my heart expanding to and your alien arms. All my early dreams are shattered. I'm so tired, I quit. I take my forever, it doesn't matter. Deep inside of your ship, la landing. Yeah. Oh, I want your return. See my heart is spending to. Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita, ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro. Prendimi adesso, baby, qui come sono, stringimi forte, prova a capire il desiderio forte. Il desiderio forte è il fuoco che respiro. L'amore è un banchetto sul quale ci sfamiamo. Quindi avanti ora, prova a capire. Prova a capire come mi sento quando sono nelle tue mani. Prendi la mia mano, vieni al riparo. Loro non possono ferirti ora. Non possono ferirti ora, non possono, perché la notte appartiene agli amanti, perché la notte appartiene al desiderio, perché la notte appartiene agli amanti, la notte appartiene a noi. L'amore ha segnato la mia vita, l'amore per la poesia, l'amore per la musica, l'amore per l'arte, l'amore per il suono, l'amore per mio marito, l'amore per mia figlia. Ho scritto spesso sull'amore, forse anche con presunzione, perché credo sia l'argomento più difficile sul quale esprimere qualcosa. Io amo la vita, la terra, la gente, la musica. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato quell'amore e sono stata fortunata ad aver avuto intorno persone che mi hanno voluto bene davvero, persone con cui ho potuto condividere tanto della mia vita. Una volta lessi su una rivista una frase che mi definiva la poetessa del rock. Un'altra volta lessi da un'altra parte che ero considerata la madrina del punk. Io sono un'artista americana e non ho colpe. Non ho mai pensato di essere una politica. Ho sempre voluto comunicare qualcosa. Sono americana e amo i principi su cui si fonda il mio paese. Abbiamo la libertà, ma io sento di avere una grande responsabilità per questo, verso il resto del mondo, tutto il resto del mondo. Io sono una donna che esprime quello che sente e che spera che attraverso la parola, la musica, l'arte, il mondo possa cambiare davvero, possa migliorare. Ma sta a noi, solo a noi ora, fare in modo che succeda qualcosa. Stare a noi, non stare a guardare. Stare a noi, agire. La poesia e la musica sono la mia vita, ma ringrazio sempre mia figlia di farmi sentire profondamente una donna semplice e banale, non qualcuno che si eleva al di sopra degli altri per indottrinarli. Lasciatemi libera dalle etichette, lasciatemi libera dagli schemi in cui mi avete messa per tutta la vita, lasciatemi libera di essere quello che sono davvero. I see it all before me, the days of love and torment, the nights of rock and roll, and I see it all before me. Sometimes my spirit's empty, don't know where to go on. I wish somebody would send me energy, give me something. Give me something to give. Can't give me something. Reason to live. My body's aching. Down with sympathy. Come on, come and love me. Come on, set me free. Set me free. The Lord of my shepherd, I shall not want. Making me to lie down in green pastures. He led me beside the still waters. He restored my soul. He led me through the path of righteousness for his name's sake. Yeah. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will no fear, no evil. And Lord, I'm waiting for you. So God, I'm waiting for you. Waiting to open your 90 winds and be there, let me, and give me something, give me something to live. Oh God, give me something, a reason to live. I don't want a handout, don't want sympathy. Set me free, set me free, come on, set me free, set me free. me free. Set me free. Come on, set me free. Set me free. I'm too young to get 'em young. I'm too young to get 'em young. I'm too young to get 'em young. I'm too young to get 'em young. I'm too young to get 'em set me free. In the presence of my enemies, thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Oh, damn God, too young, so good, I'm young, I'm too young, so good, I'm young, I'm too young, so good, I'm young.